Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Come ormai capita da qualche tempo, al telefono con noi c'è Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Allora ciao Francesco, un saluto anche agli ascoltatori. Allora parliamo di consumi, ahimè. C'è infatti una interessante indagine che adesso ci illustrerai, che ci racconta un po' come siamo messi con i consumi degli italiani e quali sono anche le cose che sono cambiate nel tempo e negli anni. Sì, è la classica, nel senso che viene fatta ogni anno indagine della COP che analizza un po' la vita quotidiana degli italiani, quindi insomma analizza un po' i cambi di abitudine per quanto riguarda i consumi, non solo i consumi alimentari, ma insomma anche i consumi per esempio di farmaci. Infatti adesso magari mentre parliamo, Francesco, vedremo alcune novità. Allora, intanto partiamo da un presupposto. Sappiamo che ormai i consumi sono un po' al palo da parecchi anni. Per il 2016 si registra una leggera crescita, però sto parlando di un più 1,1%, insomma sempre crescite molto modeste. Possiamo dire insomma che i consumi ormai da parecchi anni, come dicevo, siano rimasti abbastanza invariati, sono sicuramente diminuiti dal 2008, da quando insomma si è manifestata palesemente la crisi. Però ci sono alcune curiosità che sicuramente emergono dalla ricerca. Tanto per cominciare, per quanto riguarda la dieta che potremmo definire cerealocentrica, cioè basata sui cereali, diciamo che è in leggera diminuzione, che ci lascia un po' stupiti, però in realtà vediamo che nei confronti che vengono fatti dalla COP, confronti con gli anni 60 e gli anni 90, insomma adesso siamo attorno a un'incidenza sui consumi totali pari al 18%, negli anni 60 era del 22%. Per quanto riguarda invece altri consumi, la carne per esempio, sappiamo che in teoria con una certa campagna, soprattutto nei confronti della carne rossa, il suo consumo dovrebbe essere diminuito. Registriamo, e invece l'abbiamo detto anche in altre occasioni nella trasmissione, in realtà i consumi anche dagli anni 90 sono rimasti pressoché invariati, sono aumentati invece nettamente rispetto agli anni 60, ma questa è una cosa chiara. Una curiosità, per esempio, e questo vorrei fare un indovinello ai radioascoltatori, ma insomma cerchiamo di vederlo insomma così in termini statistici. Il vino, il consumo di vino, l'incidenza nei consumi totali negli anni 60 era del 13,5%, negli anni 90 del 6,3%, oggi invece siamo arrivati al 3,6%, quindi una netta diminuzione del consumo di vino. Invece la birra è passata da un consumo dell'1,1% al 2,6% degli anni 90 al 3,3% di oggi. Insomma, traiamo come concetto che insomma sembra che la birra stia superando un po' il vino, stia raggiungendo il vino nei gusti degli italiani. Un'altra cosa da dire, Francesco, passando invece ad altri tipi di consumi, ora abbiamo parlato di consumi alimentari, però per quanto riguarda invece proprio l'incidenza, quindi quanto spendono gli italiani durante l'anno, diciamo che la parte del leone adesso la fa la voce abitazioni e utenze, e possiamo dire che noi all'Adico lo sappiamo benissimo, perché ovviamente ci occupiamo molto di bollette e vediamo che le bollette cominciano a essere molto alte, cominciano a determinare in modo massiccio insomma la spesa mensile da parte mensile o bimestrale da parte delle famiglie. Infatti nel 2000, certifica sempre questa indagine, si è passati da, nel 2000 anzi c'era un'incidenza percentuale delle spese per le utenze del 18%, invece adesso siamo passati al 24%. Quindi vuol dire che un quarto della nostra spesa praticamente finisce in bollette, fondamentalmente, perché quella è la voce più impattante. Un'altra curiosità, perché ecco, diciamo che questa ricerca soprattutto serve per evidenziare alcune curiosità, è quella che purtroppo siamo diventati leader, o siamo leader nei consumi dei farmaci antistress, siamo leader in Europa. E tra l'altro, sempre in relazione a questo, sono raddoppiati i praticanti di yoga, quindi capisci che Francesco, insomma, siamo un po' Ricerca della serenità. Alla ricerca della serenità perduta o mai avuta, questo dipende dalle singole persone. Per quanto riguarda invece ancora gli alimentari, sono passato un po' da un consumo all'altro, però ci sono varie curiosità che voglio mettere in evidenza. È quella legata ai cibi etnici. Noi sappiamo che il consumo di cibi etnici è decisamente aumentato, anche perché chiaramente è decisamente aumentato il numero di stranieri. In Italia abbiamo un aumento dell'8% da 2007 ad oggi e soprattutto abbiamo un aumento netto di alcune spezie, tipo lo zenzero, che è aumentato, il cui consumo è aumentato del 141%, e della curcuma, il consumo è aumentato del 93%. Sappiamo che sono spezie che fanno anche bene alla salute, quindi probabilmente è legato anche a questo. Sì. Beh, interessante questa cosa. Insomma, l'economia italiana si muove poco, però all'interno della spesa le cose cambiano. Io ci metterei anche le spese della macchina, oltre che dell'immobile, anche del mobile, cosa che si muove, con bollo, assicurazione, benzina, quindi la revisione. E Francesco, tra l'altro, e sottolineo una cosa, tu hai detto giustissimo che appunto la macchina incide moltissimo sulla spesa della famiglia, casa e macchina le mettiamo chiaramente tra le spese più alte, anche perché sono facili da tassare, ovviamente, quindi anche questo è il motivo. Diciamo che adesso tra revisioni e assicurazioni si sa che c'è parecchia gente che faceva magari la furba, anche perché sono cose si sono appunto molto costosi. Adesso avvertiamo che i vigili hanno degli strumenti tali per cui riescono solo dalla targa ad individuare se il possessore dell'automobile ha fatto la revisione, ha pagato l'assicurazione. Quindi attenzione, non è più facile fare i furbi, non bisogna farlo, però diciamo che adesso la polizia municipale ha degli strumenti tali per cui non si riesce più a scamparne. E la spesa con la multa diventa molto più alta, quindi è bene segnarsi le date di scadenza della revisione, del bollo e di tutte queste cose, in maniera da tenerle sotto controllo. Va bene, grazie all'Adico, grazie a Gianluca Codognato, ci ritroviamo tra qualche giorno. Grazie a te, Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.